Componimento 105esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Mai non vo più cantar com'io soleva, ch'altri non m'intendeva ond'ebbi scorno, e puossi in bel soggiorno esser molesto. Il sempre sospirar nulla releva, già su per l'Alpi neva d'ogni intorno, ed è già presso al giorno, ond'io son desto. Un atto dolce, onesto e gentil cosa, ed in donna amorosa ancor m'aggrada, che n vista vada altera e disdegnosa, non superba e ritrosa. Amor regge suo imperio senza spada. Chi smarrita la strada torni indietro. Chi non ha albergo posisi in sul verde. Chi non ha lauro o l perde, spenga la sete sua con un bel vetro. Idi è in guarda a San Pietro. Or non più, no, intendami chi può. Chi m'intend'io? Grave soma è un malfio a mantenerlo. Quando posso mi spetro e sol mi sto. Fetonte odo che un po' cadde e morio, e già di là dal rio passato è il merlo. Deh, venite a vederlo. Ori non voglio, non è gioco uno scoglio in mezzo l'onde, entra le fronde il visco. Assai mi doglio quando un soverchio orgoglio molte vertuti in bella donna asconde. Alcun è che risponde a chi nol chiama, altri chi l prega si delegua e fugge, altri al ghiaccio si strugge, altri dì e notte la sua morte brama. Proverbio ama chi t'ama è fatto antico, i so ben quel ch'io dico, or lassa andare, che conven ch'altri impare alle sue spese. Un'umil donna grama un dolce amico, mal si conosce il fico. A me pur pare senno a non cominciar tropp'alte imprese, e per ogni paese è bona stanza. L'infinita speranza occide altrui, ed anch'io fui alcuna volta in danza. Quel poco che m'avanza, fia chi nol schifi, s'il vo dare a lui. I mi fido in colui che l mondo regge, e che seguaci suoi nel bosco alberga, che con pietosa verga mi meni a passo omai tra le sue gregge. Forse con uom che legge non s'intende, e la rete tal tende che non piglia, e chi troppo assottiglia si scavezza. Non fia zoppa la legge ov altri attende. Per bene star si scende molte miglia, tal par gran meraviglia e poi si sprezza. Una chiusa bellezza è più soave. Benedetta la chiave che s'avvolse al cor e sciolse l'alma e scossa l'ave di catena sì grave e infiniti sospir del mio sen tolse. Là dove più mi dolse altri si dole e dolendo adolcisse il mio dolore, ond'io ringrazio amore che più nol sento, ed è non men che suole. In silenzio parole accorte e sagge, è il suon che mi sottragge ogni altra cura, e la pregione oscura, ov'è il bel lume, le notturne viole per le piagge, e le fere selvagge entra le mura, e la dolce paura e il bel costume, e di duo fonti un fiume in pace volto, dov'io bramo e raccolto ove che sia. Amor e gelosia m'hanno il cor tolto e i segni del bel volto che mi conducon per più piana via a la speranza mia al fin degli affanni. O riposto mio bene e quel che segue or pace or guerra or triegue mai non m'abbandonate in questi panni. De passati miei danni piango e rido, perché molto mi fido in quel chiodo, del presente mi godo e meglio aspetto, e vo contando gli anni e taccio e grido. en bel ramo m'annido, e in tal modo ch'i ne ringratio et lodo il gran disdetto che l'indurato affetto al fine à vinto, et ne l'alma depinto i sarei udito et mostrato ne adito, et ànne extinto tanto inanzi son pinto, ch'il pur dirò non fos tu tant'ardito. Chi m'à l fianco ferito et chi l risalda, per cui nel cor via piú che n carta scrivo. Chi mi fa morto e vivo, chi n un punto m'agghiaccia et mi riscalda. Fine del componimento.